se noi ci abituiamo a fare questo lavoro con loro, nel momento in cui ci sarà un problema reale forte, il problema si potrà affrontare insieme, altrimenti poi ovviamente saremo bypassati, perché in qualche modo loro qualche risposta la debbono avere, da qualche parte si devono sbattere le corna, come si suol dire. Quindi se non è con noi sarà con altri, ma il problema comunque si dovrà affrontare. E allora, provando a chiudere, la difficoltà maggiore che oggi poi si riscontra con riferimento alla figura e all'assenza della figura paterna è data proprio dal rifiuto del padre a beneficio della madre rispetto a un problema oggi forse più avvertito, che è quello dell'omosessualità. E anche qui noi padri abbiamo, come dire, molto da dire, da dare e da fare, perché soprattutto in questo campo si misura la crescita di nostro figlio, e su questo campo, come dire, non possiamo permetterci vuoti che magari poi siamo disposti a riempire solo con uno sterile esercizio di autoritarismo. Perché poi cosa facciamo? La reazione qual è? Saliamo in cattedra, cominciamo a sbattere i pugni sul tavolo e affermiamo con la logica assertiva sì, no. Ci siamo dimenticati che nel frattempo nostro figlio è cresciuto e che questo tipo di tecnica non paga più, perché sarà da lui percepito come uno sterile esercizio di autoritarismo, che poi ci sarà restituito ovviamente al mittente, non solo, e che magari i nostri figli poi replicheranno quando saranno loro stessi genitori, perché questo modello hanno introitato, no? E quindi ciò che poi ricevono trasmettono, oltre a entrare profondamente in crisi quando ci saranno problemi di un certo tipo. E allora, provando veramente un po' a chiudere, un padre si interessa certamente dei problemi del figlio, ma deve necessariamente anche partecipare, non perché sia un dovere, vuol dire, in senso tecnico e giuridico, ma perché è un modo di crescere insieme. Deve partecipare alla sua gioia, al suo piacere, deve provare a costruire percorsi di condivisione anche nell'utilizzo del tempo libero. Dice sì, ma dov'è sto tempo libero? No? Se ognuno di noi va, dice, ma qual è questo tempo libero? Certamente ci saranno difficoltà che sono soggettive, personalizzate, però anche qui, se noi siamo attenti, lo possiamo ricavare questo tempo. No? E direi, lo dobbiamo ricavare, soprattutto noi padri. Immaginiamoci per un momento di andare avanti nel tempo. Il figlio che diventa genitore. La domanda è: che idea avrà mio figlio di me genitore? Che cosa penserà? E soprattutto che cosa trasferirà a sua volta quando vivrà la bellezza della paternità, della genitorialità? Cioè, in fondo, io che cosa sono riuscito a fargli capire? E perché poi, attenzione, la fase del giudizio dei figli è sempre quella più tranchant. Cioè, noi siamo sezionati e sono molte volte duri e pesanti i giudizi, no? Poi magari molte volte, vuol dire, sono forse un po' ingenerosi, ma ci sta anche questo. Ancora una volta, vuol dire, il genitore, il padre, che immagina, non si sa per quale ragione, dico al di là del fatto naturale della nascita, che certamente non è un fatto secondario, la gratitudine eterna del figlio. Ma sì, forse no. Attenzione, il problema è che cosa siamo riusciti noi a trasmettere loro, cioè qual è il valore aggiunto che abbiamo dato loro. Non possiamo chiuderci dinanzi al fatto, beh, però io ti ho dato la vita. Sì, vabbè, certo, come dire, direbbe mio figlio, mi ha messo in questo guaio, mi ha dato la vita, cioè, ora veditela tu. Attenzione, cioè, io non posso limitarmi a questo, cioè in che cosa ti ho aiutato a migliorarti come persona? Perché non mi interessa il figlio perfetto, ma il figlio migliore. Ho voluto per te che tu fossi una bella persona, provando a lavorare su quei punti che per esperienza mia sono certo che ti aiuteranno, non perché te lo sto dicendo io, perché è così e si deve fare così, perché questa logica poi alla fine non paga, ma non può pagare, perché implica che noi abbiamo di fronte non un essere umano ma un automa. Cioè, se io ci sono passato da questo momento e l'ho vissuto pure io, io ho affrontato così, mi è andata bene, tu hai visto che mi è andata bene, proviamo a lavorare, poi tu non lo condividerai, non ha importanza. Però quando poi avrai fatto in maniera diversa e tornerai da me dicendo, sai papà, forse effettivamente avevi ragione, la reazione non sarà quella, e te l'avevo detto che era così, ma siccome tu c'hai la testa dura, non vuoi capire, non vuoi sentire, non vuoi ascoltare, adesso peggio per te, no? Che come dire, vabbè, meglio che non ci andavo, no? E me la tenevo per me. Cioè nel momento in cui il figlio riconosce la, come dire, bontà dell'atteggiamento di suo padre, e poi la logica deve essere quella, vabbè, questa volta è andata così, ma la prossima, siccome l'hai capito, andrà diversamente. Cioè l'idea secondo cui anche nella dialettica genitore-figlio noi possiamo avere due prospettive del tutto diverse, eh? E quindi io non ti riuscirò a imporre a forza la mia, perché difficilmente si innesca un processo positivo di crescita, però ti posso ingenerare il dubbio che possa essere così. Poi tu farai l'esperienza, no? Ti renderai conto che effettivamente hai fatto esercizio della tua libertà a un certo punto, però hai capito che c'è qualcosa che non funziona, allora forse tornerai a quel pensiero del genitore che ti diceva, beh, però stai attento perché forse non è esattamente in questi termini, secondo me non è così. Il figlio dirà, no, secondo me è così, si consumerà quello strappo perché si prenderà una strada diversa, però nel momento in cui il figlio si rende conto e rientra, anche qui, come si diceva stamattina, la logica deve essere sempre quella dell'accoglienza, perché altrimenti l'effetto che otteniamo è peggiore del precedente risultato. E allora, proprio chiudendo, al di là dello sfascio a cui tutto sommato noi oggi assistiamo, io direi che a conclusione, forse anche perché ci aiuta, cioè aiuta noi adulti in qualche modo a mantenerci sempre in questa linea direttiva, la nostra attività educativa, che certo comporta uno sforzo, perché non è facile, anche noi abbiamo le nostre debolezze, i nostri limiti, quante volte abbiamo la tentazione di mollare, se no guardi io non ce la posso fare, non ce la faccio e sono stanco di lottare, ma penso che sia un'esperienza quotidiana abbastanza avvertita da tutti. Però la nostra attività educativa, potremmo dire, costituisce, e qui riprendo il pensiero di un, diciamo, pedagogista del luogo, no? Palermitano, secondo cui il miglior antidoto a disposizione degli adulti per uscire fuori dai propri problemi personali, dandosi a chi ha bisogno di aiuto, quindi l'attività educativa costituisce questo, al punto che la paternità o la maternità, che è un fatto in primo luogo spirituale, costituisce una tappa obbligata nel cammino verso il conseguimento della maturità umana. Cioè, paradossalmente, mentre noi pensiamo che la nostra attività educativa sia in prima battuta, anche giustamente, orientata verso il bene dell'altro, allo stesso tempo realizza il nostro bene, perché noi stessi cresciamo, cioè ci rendiamo conto, lo avvertiamo, lo sperimentiamo, e sperimentiamo peraltro che con ogni figlio il percorso è diverso, perché non esiste un figlio uguale a tutti gli altri, un figlio cliché, per cui noi replichiamo lo stesso modello, sia dal punto di vista degli atteggiamenti, il tempo cambia, noi stessi cambiamo, la nostra prospettiva è mutevole, e non è un giudizio di merito, perché cambiamo naturalmente da questo punto di vista, ogni volta è un processo di adattamento. Allora in questo effettivamente è vero che oggi essere padre è molto complicato, è vero che il discorso del papà sei tu il mio eroe può diventare, come dire, una possibilità ma anche un rischio, attenzione anche qui alla eccessiva idealizzazione del padre, no? Che poi altrimenti, come si diceva, no? Corruptio optimi, pessima est, a un certo punto quando cade il mito finisce tutto, ed è, come dire, un rimedio peggiore del male. E allora anche qui sì, ci giochiamo questa possibilità, però sappiamo che c'è sempre tempo per recuperare, non esistono situazioni di non ritorno. Il problema è che bisogna crederci, credendo che questo è il nostro compito primario educativo, soprattutto di noi padri. Grazie.